Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Sarà Filadelfia, negli Stati Uniti, la città che nel 2015 ospiterà il prossimo incontro mondiale delle famiglie. L'annuncio è arrivato a conclusione del settimo appuntamento svoltosi a Milano. 153 paesi di provenienza dei pellegrini, le famiglie di tutto il mondo si sono strette intorno al Papa nei giorni difficili del Vatilix e Benedetto XVI ha sentito questo affetto. L'arcivescovo di Milano, il cardinal Angelo Scola. Io posso dire che il Santo Padre era molto contento. Quando gli ho chiesto se era molto stanco, mi ha detto che era più consolato che stanco. L'opinione pubblica ama il Papa, la gente ama il Papa. 26 anni di matrimonio, Alfonso Colzani, sua moglie Francesca Dossi e i quattro figli erano tra le famiglie che hanno pranzato con il Papa e questo è il racconto della loro avventura nelle parole della signora Francesca. Abbiamo quattro figli, il maggiore ha 25 anni, poi abbiamo Camilla di 23, Lia di 20 e Zeno di 15 anni. Siete stati scelti per pranzare con il Papa. Quando vi è arrivata questa notizia e come avete reagito? Ci occupiamo della pastorale familiare della Curia qui di Milano. Ci è arrivata la notizia, la richiesta, qui ero qui in ufficio, ero un po' stupita perché non ci avevano detto nulla prima, insomma era una settimana prima dell'evento. E la reazione è stata un po' di, certamente di piacere, insomma contenta, nello stesso tempo ho preso tempo, nel senso che ho detto vediamo di interpellare un po' tutti i miei ragazzi, tutti i figli. E quando l'ha detto a casa, loro come hanno reagito? Il maggiore molto bene, era quello che forse temevo come reazione di perplessità, invece dice no, mi interessa, bello, è una cosa bella. E anche gli altri, una delle mie figlie un po' più così timorosa, forse un po' restia a un evento che l'avrebbe un po' vista al centro, comunque una cosa importante, ecco, in quel senso lì. Però bene, direi che man mano hanno apprezzato, ecco, l'apprezzamento loro è arrivato col tempo, l'apprezzamento della cosa. Quindi poi vi siete organizzati e vi siete un po' preparati anche dal punto di vista dell'abbigliamento, di tutto, insomma. Eh sì, certo, dovevamo un po', come dire, essere all'altezza della situazione nel senso giusto, quindi c'era da scegliere un po' l'abbigliamento opportuno e poi tutta l'incertezza di come sarebbe andata è stato l'argomento dei giorni precedenti l'evento, ecco. Arriviamo al giorno del pranzo, poi com'è andata? È andata bene? È andata bene, non eravamo al tavolo con il pontefice. Che impressione vi ha fatto il Papa? L'impressione di una persona comunque molto dolce. I miei figli subito hanno colto lo sguardo, a loro ha fatto ricordare il nonno, veramente la figura del nonno, però anche uno sguardo molto attento a cogliere le cose e anche affettuoso, perché ai ragazzi ha chiesto di loro, di quello che facevano, quello che studiavano. E ci è sembrato anche contento, un viso rilassato, sereno, ecco. Ecco, l'impressione che lei ha avuto appunto che queste giornate a Milano gli abbiano fatto bene in questo momento difficile. Io credo proprio di sì, l'ho visto anche durante la celebrazione, anche la sera della festa delle testimonianze, comunque sereno, sì, gli ha fatto sicuramente bene, emotivamente la vicinanza affettuosa di tutti che gli è stata insomma riservata a Milano fa sicuramente bene, ecco, sentire l'affetto e la vicinanza ritempra anche in momenti difficili. Ora c'è Don Willy Volonté, a domenica prossima. Quella di Papa Benedetto XVI è forse la voce più alta e convincente che parla al mondo della famiglia. Il resto del mondo politico e anche di altre fedi religiose hanno abbandonato la cifra distintiva della famiglia naturale, il per sempre, proprio così, per sempre, che sembra appartenere più al mondo del soprannaturale e dell'eterno che a quello terreno e quotidiano. Eppure l'amore per sempre che contraddistingue il matrimonio e la famiglia è il più forte antidoto alla precarietà, all'effimero che contraddistingue il nostro tempo, al mordi e fuggi davanti al primo ostacolo che si presenta sul nostro cammino. È questo odierno privilegiare il passeggero, l'instabile, che ha purtroppo intaccato il DNA della nostra società, producendo non solo il pensiero debole, ma una volontà debole, una fragilità endemica che frantuma la famiglia e tutta l'innervatura della società, che si trova così strutturalmente infiacchita e talvolta impotente quando capitano crisi politiche, sociali ed economiche. Il credere che il per sempre sia fondamentale per rinforzare la natura dell'uomo sta all'origine della robustezza dell'umano stesso, lo rende sicuro anche nelle avversità perché sa di non essere abbandonato alla solitudine. Dunque la prima palestra per radicare l'amore per sempre, abbracciarlo con il perdono, trattenerlo a sé con tenacia e mitezza è proprio la famiglia. Per questo la Chiesa non desiste dall'affermare che esiste un solo tipo di famiglia ed è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, fedele per sempre e aperto alla vita, alla generazione ed educazione dei figli. Affermazione presente in tutti i discorsi fatti nell'incontro mondiale delle famiglie a Milano, che ha rimesso a tema la famiglia, il lavoro, il riposo e la festa. Parole antiche, pure sempre attuali, che si rivelano oggi più che mai vere e risolutive per una vita buona.